Benvenuti, benvenuti cari amici e cari amiche di Radio Cage a Testa o Croce Show. Questa di stasera è una puntata anomala per molti, per vari motivi. Il primo è che manca il mio co-conduttore, il Gab, che è a Roma per una presentazione di un libro in cui è stato pubblicato un suo racconto. E Gab è un bravissimo scrittore, io conosco la sua prosa e insomma gli facciamo un sacco di auguri e sicuramente la prossima puntata ci farà sapere com'è andata. E poi perché abbiamo invece due ospiti, di cui uno è già in studio, l'altra sta per arrivare perché era a una conferenza che vi avevo annunciato alla scorsa puntata sulle cerimonie laiche qui a Livorno. Ora l'argomento delle cerimonie laiche ce lo introdurrà lei. E l'altro ospite è Davide Costanzo del Circolo UAR di Livorno, o UAR che dir si voglia, che appunto ha organizzato questa conferenza. Ciao Davide. Buonasera, grazie Vincenzo per avermi invitato a questa trasmissione. Grazie a te per essere qui. Benissimo, quindi vi ricordo i contatti per intervenire in trasmissione, se avete delle domande da fare poi agli ospiti o sulle tematiche di questa puntata che saranno particolarmente delicate forse anche da affrontare. L'email è testocroceshow@gmail.com, lo Skype da aggiungere è testocroceshow. Vi ricordo come sempre anche il nostro blog che aggiorniamo ogni tanto, però insomma ogni tanto dateci un'occhiata, testocroceshow.blogspot.com. Oggi è, innanzitutto cominciamo con questa brutta abitudine di dire appunto chi compie gli anni oggi e chi viene celebrato dei santi. Oggi è Sant'Eligio, San Naum, San Proietto, Sant'Ansano e Sant'Evasio. Ecco, tutti probabilmente tra i nostri ascoltatori ci sono un sacco di Eligio, di Naum, di Proietto. Se ci sono, se ci siete, fatevi sentire. E poi è il compleanno di un personaggio che a noi piace tanto, Woody Allen. Ah, grande. Ecco, grandissimo Woody Allen, che sta per uscire qui in Italia con il nuovo film Midnight in Paris, che sta lavorando con Benigni, sappiamo, e di cui abbiamo già mandato un pezzo di un video nella scorsa puntata, cioè di un video, insomma, naturalmente i nostri ascoltatori hanno sentito solo l'audio, e è stato appunto il film da cui era tratto, è stato correttamente individuato da una nostra affezionata ascoltatrice. Quindi stavolta lo ricordo soltanto con una sua battuta: io non so se Dio esiste, ma se esiste spero che abbia una buona scusa. Ecco, questo un po' introduce il tema della puntata. E per introdurlo insomma un po' più sostanziosamente vorrei leggervi alcuni brevissimi frammenti proprio della Bibbia, ecco, giusto per così ora tutti quanti chiudono i browser. No, ma la Bibbia secondo me è un grande libro che ogni tanto va letto e dal quale c'è da imparare. Sì, ecco. sì, sicuramente. No, ci sono anche dei pezzi molto divertenti. Sì, ce ne sono anche altri forse meno divertenti, un po' atroci comunque. Va bene, uno per esempio, uno di questi frammenti è ad esempio il Salmo, dal Salmo 14, che comincia così: lo stolto pensa, non c'è Dio. Ecco, quindi già abbiamo inquadrato la questione. Però, lo stolto dice così, però Isaia fa notare che in verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore. Quindi, insomma, anche loro... Cioè, non è sì, che anche questo, perché Dio non è che si fa vedere tanto in questo giro. Questo Dio si nasconde, quindi lo stolto pensa così, però forse c'ha qualche ragione. Allora, poi, infatti, anche nel Nuovo Testamento Giovanni 1,18 dice: Dio nessuno l'ha visto mai, e su questo non ci piove. Osea, però, che è profeta, no? Parlava per bocca, Dio parlava per bocca di lui, scrive in 13,4: eppure io sono l'Eterno, il tuo Dio, e tu non devi riconoscere altro Dio fuori di me. E nei Proverbi sta scritto: confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Quindi, però, sì, credi ciecamente. Sì, però qualcuno potrebbe dire: questo è il Vecchio Testamento, nel Nuovo sarà molto diversa la questione. Infatti, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo scrive: vi parlo come persone intelligenti, giudicate quel che dico. Però sempre in prima Corinzi dice: la mia parola e il mio messaggio non ebbero discorsi persuasivi di sapienza, ma conferma di spirito, affinché la vostra fede non si basi sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E già qui capiamo un po' di meno. Ma poi dice anche: sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e l'intelligenza degli intelligenti, riproverò. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dove l'intellettuale di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrata stolta la sapienza di questo mondo? E poi ancora sempre nella stessa lettera, se uno pensa di essere sapiente tra di voi, si faccia stolto per diventare sapiente. Ma lo stolto non era quello che pensava in cuor suo non c'è Dio. Insomma, è una selva oscura, difficile da penetrare, no? Sì, più che altro spesso sia la Bibbia e il Vangelo vanno in contraddizione tra di loro, molto probabilmente perché sono stati scritti in due epoche differenti. Ricordano un po' tipo Rambo 1 e Rambo 2, dove Rambo 1 è un film drammatico, mentre Rambo 2 è un film d'azione, sono due cose completamente differenti. Esatto, molto, molto chiaro. Però d'altra parte noi stavo citando lo stesso libro del Nuovo Testamento, quindi insomma forse c'è un po' di, c'è poca chiarezza. Vabbè, lo stesso Nuovo Testamento è stato scritto, sì, i libri sono stati scritti in momenti diversi, a persone diverse, quindi certo, con scopi diversi anche, e molto probabilmente non avevano letto le parti prima, chi l'aveva scritto dopo. Sì. Bene, quindi vi sarete fatti comunque un'idea di quello di cui vogliamo parlare stasera, che quindi insomma non è proprio semplicissimo. Però partiamo proprio per darci la carica, no? con un brano musicale. Quando ho invitato Davide in trasmissione, gli ho chiesto: c'è un brano che vorresti presentare? Lui mi ha spedito una lista sostanziosissima di brani tra cui scegliere, ne ho scelti due, e il primo che voglio farvi sentire tra questi è questo qui, dei Death SS, High Tech Jesus, dall'album Panic del 1999. Sì, in questa canzone sarò molto breve, ne parliamo dopo. Ora parte. Church gets your salvation 24 hours a day. Rieccoci in diretta, bentornati. Questa è la sesta puntata di Testa Croce Show. Qui con me c'è Davide Costanzo del Circolo UR di Livorno, che appunto ha scelto lui questo brano praticamente, e volevi dirci qualcosa su questo brano, Davide? Sì, per capire meglio di quello che parla questa canzone, se avete Sky vi consiglio di sintonizzarvi dal canale 850 in poi, dove sono presenti diversi canali cristiani evangelisti, dove appaiono appunto questi messaggi con numeri di telefono tramite il quale si può parlare con dei predicatori e anche avere appunto assolte i propri peccati. Come, ma così in diretta? E sia in diretta, sia ci sono persone pagate, come l'14 qua, come servizi. Sì, interessante. E soprattutto poi c'è la TBNA, che è veramente esilarante, vi consiglio di darci un'occhiata, perché dicono, ci sono delle cose veramente assurde. Ecco, quindi il vero High Tech Jesus è in Sky. Sì, sì, dateci un'occhiata per farci due risate. Benissimo, quindi tu sei del Circolo UR di Livorno. Ora, cos'è l'UR? Io faccio finta di non saperne niente, no? Perché sembra a questo nome che sembra un po' un grido, no? Il campanello di Dylan Dog, no? Cos'è? Diccelo un po'. UR intanto diciamo sta per Unione Ateisti Agnostici Razionalisti, ed è un'associazione di promozione sociale che ha lo scopo di tutelare tutti i diritti delle persone non credenti o appunto ateo agnostiche. L'UR diciamo è presente su tutto il territorio nazionale e non riceve nessun contributo da parte dello Stato. Ma questo diciamo da un certo punto di vista è anche un bene, perché non riceviamo pressioni da nessuno, certo, e siamo completamente indipendenti. I valori diciamo in cui si fonda l'UR sono l'uguaglianza sociale prima di tutte tra gli orientamenti sessuali, Sì, quindi insomma le minoranze, no? Discriminate. Le minoranze appunto, quelle più discriminate, che non riescono ad avere appunto uno sbocco sociale, anche per le condizioni economiche addirittura. L'UR si prefissa, lo scopo principale dell'UR appunto è promuovere... Forse è evangelizzare, cioè convincere le persone che Dio non esiste, è questo? No, proprio questo, diciamo no. Assolutamente no. Cioè, più che altro comunque è dare una voce a queste persone che non hanno, che non hanno, cioè nei mass media, diciamo, non ci sono. Esatto. Sì, è raro vedere in televisione, no, che si parli dei non credenti, che però sono una realtà notevole in Italia, no? Sì, ho letto anche che... perché sono la seconda, cioè i non credenti rappresentano, dopo la religione cattolica, sono la maggior parte delle persone, sì. Si parla comunque di milioni di persone. Sì, ho letto infatti che in Italia una persona su sei dichiara di essere non credente, poi ci sono quelli che non lo dichiarano. Sì, naturalmente sono molti di più, poi parlando con le persone in giro, certo, ti accorgi che sono più le persone non credenti, soprattutto le nuove generazioni. Esatto. Diciamo, ciò che lotta loro è appunto avere una netta distinzione fra Stato e Chiesa, sì, cosa che in Italia non esiste. Sarebbe la laicità, no? Sì, appunto, la laicità. Sì, non... che si chiama. Sì, no, sarebbe giusto, anche perché insomma è un valore, pare che sia un valore condiviso, no? Costituzionale. Sì, i nostri padri fondatori, ricordiamoci che erano profondamente anticristiani, da Garibaldi a Mazzini a Cavour, gli stessi Carbonari. Eppure queste cose non vengono mai citate nei libri di storia o comunque appunto nei canali, sì, ufficiali della comunicazione. Questa appunto è un'occasione per ricordarle, anche per appunto per, sì, le persone anche un po' a rivedere queste cose. Sì. È un altro poi dei messaggi che porta avanti all'autodeterminazione, no? Quindi il discorso di poter scegliere per se stessi. Ah sì, anche perché... questo è un argomento, è un tema molto vasto e molto delicato, insomma, che non possiamo certo esaurire, sì, nell'arco di questa trasmissione, certo. Però insomma cercheremo di parlarne, di dire un po' anche su questo, anche con l'ospite che dovrebbe star per arrivare, che è una celebrante laica, quindi fa cerimonie umaniste. E poi spiegherà a lei cosa significa, appunto. Però tu, Davide, sei ateo, agnostico, razionalista o sei unione? Ecco, no, io fondamentalmente sono ateo e sono un, diciamo, un grande fan, tra virgolette, del pensiero scientifico. Mi sono formato, diciamo, leggendo libri di Bertrand Russell, sì, e da lì ho compreso che comunque appunto intanto la religione viene imposta. E quindi non viene imposta, nel senso che viene battezzato ancora prima che tu ti renda conto di essere al mondo, ecco, perché ricordiamoci che comunque gli esseri umani nascono atei. Gli esseri umani nascono, poi no, vabbè, non hanno credenze religiose, poi le credenze religiose vengono imposte appunto dalla società o dai media. Sì, diciamo che c'è un'educazione religiosa, no, che viene impartita al bambino inerme, e quindi no, c'è chi ha parlato di circonvenzione, no, di incapace, sì, per quanto riguarda, vabbè, insomma, comunque è il momento di proprio di staccare un po' con un pezzo che è molto significativo. Ascoltate il testo, è Magic Shop di Franco Battiato, dal suo primo album dopo Pionierismo Elettronico, L'era del cinghiale bianco. C'è chi parte con un rago della sera, deduco da una frase del Vangelo è meglio un imbianchino di Le Corbusier. Rieccoci in diretta. Questa ovviamente era la versione live che Battiato porta in tour negli ultimi anni, di questo che era originariamente un pezzo rock più lungo e insomma strutturato in modo diverso. Per aggiungere altra carne al fuoco in questo discorso già denso, introduciamo la novità assoluta di stasera. Novità assoluta, Davide, è una rubrica che noi abbiamo in questa trasmissione per presentare religioni, culti, sette, movimenti che sono nati negli ultimi due secoli, diciamo. E stasera ho pensato di parlare del New Atheism, nuovo ateismo, no? Proprio perché un po' si lega alle tematiche dell'UAR, anche se l'UAR è stato fondato praticamente quasi 25 anni fa. Mentre il New Atheism, il nuovo ateismo, si comincia a parlare di nuovo ateismo in un numero di Wired Magazine del novembre 2006, in riferimento a una serie di pubblicazioni di libri che diciamo che hanno portato avanti il discorso dell'ateismo in modo molto deciso e con delle nuove istanze rispetto a com'era, a come se ne parlava prima, diciamo, in passato. E il primo di questi libri in genere si considera essere quello del 2004 di Sam Harris, La fine della fede. Poi Sam Harris lo scrisse, diciamo, sulla scia dell'11 settembre, quindi per denunciare la pericolosità connessa al fanatismo religioso. Certo. E poi sono seguiti appunto tutta una serie di altri libri, come se fosse stata un po' una, no, un avvio, una liberazione, un tappo che una new wave dell'ateismo. Esatto, e appunto è seguito sempre di Sam Harris Lettera a una nazione cristiana, il documentario di Brian Fleming Il Dio che non c'era, The God Who Wasn't There, poi Michel Onfray, Trattato di teologia, Dawkins, L'illusione di Dio nel 2006, un libro che ha avuto davvero un successo e una risonanza enormi, e poi Rompere l'incantesimo di Daniel Dennett, Dio, un'ipotesi sbagliata di Victor Stenger, e via dicendo, Hitchens, poi anche qui in Italia con Pievani, Creazione senza Dio, Di Freddi, Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, nel 2007, e il recente documentario di Bill Maher, Religulus. Fantastico. Molto bello e molto divertente, sì. E cosa contraddistingue questa nuova ondata di ateismo? Innanzitutto il rapporto con la scienza, cioè questi sono per la maggior parte scienziati o comunque persone che hanno una preparazione scientifica, che affermano che le cose che le religioni dicono possono avere effetti riscontrabili nell'universo fisico e quindi possono essere indagati scientificamente. E loro, quindi, che Dio, oppure parlare di un prodigio, no, di un miracolo, Lourdes per dire, no, sono comunque affermazioni che hanno una sostanza scientifica e quindi possono essere testati sperimentalmente. E loro concludono che fallisce l'ipotesi di Dio al vaglio di questa verifica. Cioè non c'è necessità di ipotizzare Dio una realtà soprannaturale per spiegare, diciamo, i fenomeni naturali che vediamo intorno a noi. Affermano che l'assenza di evidenza è evidenza di assenza e l'universo non ha le caratteristiche di un progetto perfetto, ma un qualcosa di generato e evoluto spontaneamente piuttosto. Dawkins, tra l'altro, nell'Illusione di Dio ha proposto una scala, no? Una scala riguardante la credenza, che va da 1 a 7, diciamo, per misurare qual è, diciamo, il nostro rapporto con il credere in Dio, con la religione. Allora, si parte da 1, che è il teista forte, 100% di probabilità che Dio esista, quindi Dio esiste. Nelle parole di Jung, io non credo, io so. Poi si passa alla seconda, al 2, probabilità molto alta, ma non 100%, 3, più del 50%, ma non molto alta, 4, esattamente 50%, 5, meno del 50%, ma non molto bassa, poi 6, probabilità molto bassa, vicino allo 0, di fatto ateo, e poi 7, ateo forte. So che non esiste nessun Dio. Tu in che posizione ti infili in questa scala, Davide? Ma credo nella 7. Ah, proprio ateo forte, non esiste, sì, nessun, no, Dio. Sì, no, non esiste nessun Dio. Ma come puoi dirlo con tale certezza? Non so, cioè, ora così è, diciamo, sul momento, non so come spiegarlo, studiando anche comunque la storia, vedendo comunque le persone più caute che credono in Dio, mi sento così lontano da loro che sono abbastanza sicuro che non c'è Dio. Anche se, diciamo, che il pensiero scientifico ci porta a pensare che non bisogna mai, esatto, non bisogna mai, c'è sempre una probabilità, diciamo, non bisogna mai dare niente per scontato. Per quanto improbabile. Per quanto, no? Improbabile, sì. Però diciamo, anche alla luce delle nuove scoperte scientifiche che ci sono avute negli ultimi anni, anche dei grandi dibattiti che ci sono nel resto del mondo, tranne che in Italia naturalmente, sì. In cui si nega, cioè non abbiamo prove appunto né dell'esistenza di Gesù né tantomeno di Dio, sì, tra l'altro, storiche. L'esistenza storica di Gesù o di tanti altri personaggi, no, del passato, dei testi sacri, insomma, anche sì. Quello è un campo molto vasto. Mi rendo conto che è una posizione molto dura, però, vabbè, almeno per il momento, poi magari nella vita, invecchiando, cambierò posizione, diciamo, per ora. Maturando, via, diciamo. Maturando, sì, ma per ora, diciamo, alla metà penso che io non esista. Ok. anche se mi rendo conto che è una posizione estremista. Un po' sì, infatti Dawkins stesso e la maggior parte dei nuovi atei, diciamo, si pone in un 6.9, ecco. Cioè è un'idea irrazionale, però non si può mai dire. Al massimo posso dire, non ci credo ma ci spero, ecco. Ah, ecco, quindi c'è anche in un socio dell'UAR una speranza che... Sì, no, mi piacerebbe se esistesse Dio, però diciamo che per il momento... Mi verrebbe da domandarti perché ti piacerebbe che esistesse Dio, cioè... Ma perché magari potremmo spiegare... Più che altro a me piacerebbe incontrarlo se esistesse, cioè questo Dio che si nasconde, no, non mi piace molto, però... Ecco, un Dio che venisse a parlarci di persone, a spiegarci un sacco di cose. Sì, no, in un certo senso il soprannaturale mi affascina, mi ha sempre affascinato. Quindi, sì, beh, in certo. Questo senso, dove mi piacerebbe, come mi piacerebbe arrivassero alieni domani. Vabbè, però è... diciamo che attualmente... Insomma, è molto improbabile. Sì, è abbastanza improbabile. Sì. D'accordo, metteniamo i piedi per terra, mettiamola così. Brevemente, tra l'altro, volevo chiederti qual è la differenza tra ateo agnostico e razionalista, visto che c'è questo nel nome dell'UAR. Sì, diciamo, l'ateo è facile, sì, non crede in Dio. Non crede in Dio. L'agnostico, diciamo, che crede comunque in qualcosa che... è incerto. Che diciamo. È incerto, sì, appunto, non dà una certezza assoluta. Sospende il giudizio. Sì. Vabbè, razionalista poi razionalista, è una persona che crede... Sì, è una persona che crede, appunto, come ho detto prima, nel pensiero scientifico. Che ha fiducia nelle possibilità della ragione. Nelle possibilità dell'uomo e della scienza. Il che non significa necessariamente essere ateo o essere agnostico, tant'è... che l'ottimo sito dell'UAR che pubblica giornalmente notizie, attualità sulla religione, nelle ultimissime UAR appunto, ha avuto un emulo, diciamo, opposto, che è l'UCCR, cioè Unione dei Cristiani Cattolici Razionalisti, però, cioè loro si definiscono razionalisti, e questo è interessante perché sarebbe... anzi, se ci sono dei credenti all'ascolto, no, ci potrebbero spiegare, ci potrebbero contattare, scrivere a testacrocesshow@gmail.com o su Skype Testa Croce Show e dirci qual è la ragione, no? Perché credere in Dio, credere, no? Credere senza evidenza, perché questo è razionale, perché sì. Secondo loro è razionale, naturalmente. Però se pensiamo magari a figure come Paragostino Gemelli, che se leggiamo quello che ha scritto non sembra assolutamente un uomo di chiesa. Io non l'ho letto, però mi fido. Sì, non sembra assolutamente un uomo di chiesa, è una persona molto acculturata, appunto, molto razionale. Detta, detta così sembra che gli uomini di chiesa sono tutti ignoranti, no? No, assolutamente, no. Però nel suo caso diciamo ha una concezione del mondo molto razionale. Ecco, no, ma ci sono, cioè ci sono questi sì, questi però poi ti chiedi come fanno, esatto, però esatto. Credo religiosi... soprattutto in Gesù più che in Dio, poi credo appunto nel Vangelo, che comunque narra storie veramente incredibili, sai? sì, mirabolanti. No, vabbè, ce ne sarebbero, no? Ecco, è arrivata in studio Valentina Calvelli, la celebrante laica che adesso faremo partecipare in trasmissione. Intanto mandiamo un pezzo musicale che è il secondo presentato da Davide, no? Ci vuoi dire qual è? I tanti necessarily so, un po' okay, difficile da dire, che diciamo non è andata proprio così in italiano, di George Gershwin, però rifatta dai Moody Blues. Dai Moody Blues, dall'album del 1965 dei Magnificent Moody, giusto? Sì. Bentornati in diretta, siamo qui con Davide Costanzo di Luar Livorno e con Valentina Calvelli di Firenze, sesto fiorentino, giusto? Giusto. Sì. Dunque Valentina, tu sei socia del circolo UAR di Firenze, giusto? Sì. Sì, perché finora abbiamo parlato di UAR, di nuovo ateismo, mentre ci aspettavamo, e poi sei appunto celebrante laica. Cosa significa esattamente celebrante laica? La celebrante laica è una figura che aiuta le persone non credenti o diversamente credenti, come uso dire oggi, ad organizzare una cerimonia laica per alcuni momenti che si ritengono importanti della propria esistenza, alcuni momenti di passaggio, quali la nascita, il desiderio o il progetto di accompagnarsi nella vita con una persona cara, quindi con un compagno, con una compagna, e infine il momento del distacco, cioè quando una persona a noi vicina muore e c'è da affrontare questo momento piuttosto difficile, in genere, di perdita, di vuoto e di ricerca anche di conforto in qualche modo. Certo, quindi sono dei riti in un certo senso? Si possono chiamare così? Sì, sì, si possono chiamare così, anche perché la parola rito non ha, diciamo così, il marchio registrato, ecco, di una chiesa, assolutamente. Si può parlare benissimo di riti laici, anche perché questi momenti importanti dell'esistenza o comunque momenti di passaggio che implicano una crescita, non solo dell'individuo, ma volendo anche della collettività, sono momenti che, bene o male, spesso e volentieri le chiese si sono un pochino appropriate di questi momenti, anzi facendoli diventare parte integrante di una liturgia. Certo. E soprattutto imponendo, fra virgolette, a chi è credente di parteciparvi, perché non c'è una libera scelta nel decidere di stare insieme di due persone, c'è il matrimonio. Ok? E mentre invece nel caso delle cerimonie laiche e nel caso della comunità laica ci sono tante teste che pensano e tante teste che scelgono. Certo. Quindi ci sono le persone, e se le persone hanno voglia di condividere la loro sfera privata e metterla in pubblico non in un pubblico qualsiasi, ma con le persone a loro vicine, penso che ci debba essere questa possibilità, che sia importante. Sarebbe giusto, no? Infatti tu vieni da una conferenza, no? che abbiamo annunciato già nella scorsa puntata, appunto, e che l'UAR di Livorno ha organizzato, e ci dicevi appunto che in Europa la situazione è ben diversa rispetto all'Italia. Assolutamente, infatti nei paesi europei, dalla Francia alla Spagna, ai paesi nordici, senza contare Regno Unito, dove queste cerimonie sono molto molto diffuse, diciamo che le celebrazioni laiche di momenti di passaggio dell'esistenza sono una cosa ormai accettata. Tanto per fare un esempio, il matrimonio laico umanista, che è una cerimonia che qui da noi è simbolica, cioè significa che non ha valore legale. E per dargli un valore legale dovrei chiedere, anzi gli sposi di solito chiedono una delega al sindaco. In altri paesi come la Scozia ha valore legale. Ecco, quindi tutto un altro. E tra l'altro ci dicevi che ci sono anche proprio c'è una formazione a livello assolutamente sì, accademica per le figure. Tanto per rimanere nel Regno Unito, la Humanist British Association ha proprio dei corsi per la formazione di celebranti, quindi sono corsi in cui ci si occupa sia della formazione materiale, cioè come si fa a organizzare una cerimonia, come accogliere le persone, come raccogliere le informazioni, perché le cerimonie laiche, dalla cerimonia per la nascita dei bambini, quindi la presentazione dei bambini o battesimo laico, alla cerimonia di unione, a quella del commiato, sono comunque tagliate sulle persone, quindi non esiste uno stereotipo al quale ci si rifà, ma le persone sono diverse e la cerimonia è diversa. Comunque in Inghilterra viene fatto un corso proprio sul come accogliere le persone, come avere le informazioni e le letture da accompagnare, eccetera, e anche una formazione psicologica, direi, perché ad esempio per affrontare, mentre per il matrimonio, per la festa, per un bambino sono occasioni liete in cui tutto sommato è una bella cosa trovarci. Certo, certo. Sì. Beh, anche quando una preparazione comunque certo, anche psicologica forse, per ma saper relazionarsi con le persone, no? Esatto, ma soprattutto nel caso del commiato, certo, ci si trova in una situazione che, anche non conoscendo le persone, non conoscendo lo scomparso, le emozioni degli altri diventano le nostre. Ed è vero anche che quando si vede la morte degli altri si vede la propria morte. E in questo risuona, no, dentro di noi, certo. E in questo è bene che l'argomento sia stato affrontato e che venga diffuso, naturalmente. Stiamo cercando di farlo anche stasera. anche a te Valentina, poi torneremo a parlare di questo argomento, ma ho chiesto un pezzo musicale, no, da far sentire agli ascoltatori, che per te, sì, che ha un significato particolare per il mondo di cui ti occupi, no? Sì, esatto, ti ho chiesto un pezzo, Somewhere Over the Rainbow, sì, che per me ha un significato particolare, sì, perché unisce insieme tante cose diverse, nel senso che è un pezzo che nelle cerimonie si può usare per qualsiasi cerimonia, nel senso che è molto bello per una cerimonia di benvenuto a un bambino. Tante coppie, anche omosessuali, lo scelgono per l'unione, per la cerimonia di unione, e infine è un bellissimo modo per dare l'addio a una persona cara. Ecco. E dire che c'è da qualche parte sopra l'arcobaleno dei nostri ricordi. Sì, benissimo, allora ce lo ascoltiamo, Somewhere Over the Rainbow. Bentornati in diretta a Testa Croce Show. Siamo qui a parlare di argomenti difficilissimi con due ospiti che coraggiosamente hanno accettato la sfida, Davide Costanzo dell'UAR Livorno e Valentina Calvelli dell'UAR Firenze, celebrante laica. Allora, abbiamo ascoltato Somewhere Over the Rainbow, bellissima canzone con un bridge con What a Wonderful Life, tra l'altro una versione di questo artista scomparso, mi diceva Valentina, ma dalla bellissima voce. Allora, ci ha scritto Andrea, salutiamo Andrea, che grazie per ascoltarci, che ci scrive: senza entrare nel merito di quanto avete detto finora, dico solo che per il credente non si può dimostrare Dio, ma si possono addurre motivi ragionevoli della sua esistenza. Pensatori di grande levatura credevano in Dio, o comunque in un concetto di Dio. Il fatto stesso che Dio sia trascendente e non immanente lo pone fuori dal piano della dimostrabilità e indimostrabilità scientifica. Ecco, quindi Andrea pone un po' il discorso dei non overlapping magisteria, no? Come ha posto la questione Stephen Jay Gould. Cioè, scienza e religione si occupano di cose che non si toccano proprio, sono cose proprio completamente, completamente separate. Cosa ne pensate voi? Davide? No, mi rendo conto che per chi crede, appunto, per Andrea che ci ha scritto, molto probabilmente sente qualcosa dentro di sé che lo porta appunto a credere in qualcosa di superiore, appunto quella che viene chiamata fede. Però per chi, diciamo, non sente questa cosa dentro di sé, riesce molto difficile arrivare a comprendere questa cosa. Appunto, una persona come me che non sente dentro di sé questo, non riesco bene a capire. Diciamo che è una questione di sensazione. Sì, di sensazione, te, no? Più che una cosa molto personale. Più che argomenti razionali. Valentina? Beh, mi leggo un po' a quello che ha detto Davide. No. auguro ad Andrea che questa sua fede lo faccia crescere in qualche modo. Perché quello che è importante per me è l'evoluzione come essere umano e quindi i valori che noi diamo alle cose e alla vita che affrontiamo ogni giorno. Se questa cosa che lui ha, Dio, dimostrabile o non dimostrabile che sia, lo rende una persona migliore, perché no? Assolutamente, a me non disturba. Basta, ci mancherebbe. Basta che tutti siamo liberi di scegliere come crescere e come evolverci. Ecco, appunto, infatti, cioè che la fede di qualcuno, no, non diventi il comportamento dettato per tutti, giusto? Bene, tornando a parlare delle cerimonie laiche e collegandomi al discorso del nuovo ateismo, senti là che discorsi, volevo mettervi un po' in difficoltà. I credenti accusano l'ateismo di essere una religione, anzitutto, cioè di essere un'altra fede, non potendo dimostrare che Dio non esiste, dicono è una fede, è una religione, perché no? L'UAR o altre associazioni simili sono come la Chiesa, hanno una loro gerarchia, e a questo punto, appunto, mi allaccio all'esperienza professionale di Valentina, hanno anche dei riti, quindi Cioè, se chi non crede nello spirito, perché dovrebbe occuparsi così tanto dello spirito e di Dio, e perché dovrebbe cercare questi, no, questa ritualità, queste... Allora, sentiamo Valentina. Senti, ti posso rispondere citando Baldo Conti? Certo. Che è il nostro responsabile di circolo, oltre a essere una persona eccezionale. Lui mi raccontava che una volta, invitato a un convegno a Bruxelles, se non sbaglio, ebbe modo di rispondere in questo modo: beh, non sono io che sono ateo, sono gli altri che sono anormali. Addirittura. Io sono una persona normalissima, ero un bambino, sono cresciuto, eccomi qua. E c'è qualcuno che è cresciuto e a un certo punto gli è stato messo nella testa qualcosa di altro. Ma al di là di questo, al di là della facile battuta, rispondendo invece sui riti laici e sulle cerimonie laiche, come dicevo prima, spesso vediamo i riti come appannaggio esclusivo delle religioni, mentre invece sono delle situazioni di condivisione precedenti addirittura alle religioni costituite, tra virgolette. Trasversali, tra l'altro. E assolutamente, no, alle, trasversali. Alle convinzioni, no? Alle... Tanto per farti un esempio, la cerimonia di accoglienza per un bambino che nasce non ha niente a che vedere con il cosiddetto battesimo cattolico, nel senso che mentre il battesimo è l'ingresso del credente nella comunità dei credenti, e in passato giustamente era amministrato in alcune chiese cristiane, anche adesso assolutamente, amministrato quando la persona era adulta e quindi consapevole di cosa stava facendo, era una sua scelta ben precisa, invece il battesimo laico o la presentazione dei bambini è un'accoglienza di una nuova vita fra di noi, di un nuovo cittadino, come ad esempio nel battesimo civile in Francia, che è stato inaugurato durante la Rivoluzione francese. Si festeggiava l'ingresso di un nuovo cittadino, citoyen, anzi, che ha una valenza ben che diversa, ha un peso, che ha ben un peso diverso, ben diverso. Sì, sì, sì. E quindi in questo senso i riti laici non sono assolutamente una scimmiottatura di liturgie, ecco, o di altri riti che si situano in contesti religiosi. Sono delle cerimonie che permettono alle persone di dire ad alta voce le proprie emozioni e condividerle con gli altri. Del resto, voglio dire, quando ci capita un qualcosa di estremamente bello, oppure purtroppo quando ci capita qualcosa di anche molto duro da sopportare, cos'è che facciamo? Vogliamo avere intorno, chiamiamo e diglielo. Certo. Esatto. Esatto, la prima cosa, alziamo il telefono, sì, lo diciamo a qualcuno. Questo è il senso. E il senso di una cerimonia laica è anche una cerimonia che è tagliata sulle persone, tagliata sui valori delle persone. Non è un rito standard con le parole stereotipate, sempre quelle. Ogni persona porta il suo mondo e i suoi valori da condividere. Ecco, quindi per questa ognuna è diversa dall'altra. Centralità quindi all'individuo, no? E non assolutamente a qualcosa di più superiore, di trascendente, che sta sopra l'individuo, sopra tutti gli individui, no? E che quindi cui bisogna conformarsi. Giustamente tu hai detto l'ateo, perché non potrebbe essere una chiesa atea o qualcosa del genere? C'è chi lo sostiene, sì. Assolutamente, ma io parlo come laica più che come atea o agnostica, e dico che mentre una chiesa è una struttura che bene o male è gerarchica e impone determinati valori e una coerenza a quel tipo di valori anche e di credenze soprattutto, la comunità laica è fatta di tante teste diverse. È basata sulla possibilità di scelta, sulla libera scelta di quali sono i tuoi valori. È chiaro che ci sono dei valori che sono trasversali, ma quelli sono trasversali anche a chi è credente, mi auguro. Sì, si spera. Però il momento di festeggiare, di condividere dei momenti importanti della propria esistenza, si tratta di scegliere, e quindi i valori possono essere diversi dall'una all'altra persona. Quindi non credo proprio che esista una cosiddetta chiesa atea, non ci credo proprio, mi dispiace. Ecco. Concordo. Va bene, siamo in chiusura, un'ultima domanda però volevo farvela, sarebbe un argomento che potrebbe prendere 3 puntate di queste, anche di più, ma giusto una pillola. Abbiamo parlato di valori, etica, ecco, c'è chi è morale proprio, andiamo proprio in argomenti difficilissimi, c'è chi dice senza Dio come si fa ad avere una morale? A voi la parola, Davide. Ma diciamo che intanto l'etica morale nasce sicuramente prima dell'invenzione di Dio, perché diciamo, se calcoliamo che comunque le prime civiltà risalgono a oltre 25.000 anni fa, mentre la religione cristiana ha solo 2.000 anni, anche la Bibbia è stata scoperta circa 4.000 anni fa, diciamo che questi valori già esistevano prima ancora appunto della religione. E in secondo luogo abbiamo una grossa cultura dell'etica che ci deriva anche dall'illuminismo. Se pensiamo ai grandi maestri dell'illuminismo, da Karl Marx a Diderot, che appunto parlano dei valori che sono umani, che sono universali, che non, appunto non sono legati a un'ideologia religiosa, ma sono insiti nell'uomo prima ancora che fosse costituita appunto fossero costituiti organi religiosi. Ecco, Valentina, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, penso che, come ha detto Davide, il discorso dell'etica sia qualcosa che prescinde dalla religione, nel senso che l'etica è fondata sostanzialmente sul rispetto dell'altro in primo luogo e di se stessi. E quindi questo è un qualcosa che l'uomo che vive in comunità e quindi che si è evoluto come comunità umana è un'esigenza umana. L'aspetto trascendente dell'etica, quindi il fatto che l'etica sia voluta da un essere superiore, da una volontà superiore o qualcosa, certo, di simile, e quindi venga rivelata eventualmente, è un qualcosa che è comunque a parte, ovvero sia la credenza è un di più rispetto al valore dell'etica in sé. Possiamo scindere questi due campi, possiamo avere un'etica senza credenza, una credenza senza etica è un pochino più difficile. Ecco, benissimo, io vi ringrazio molto, volete dare un po' i vostri contatti, non so, Valentina, so che hai un sito, se... Assolutamente sì. Se le persone vogliono contattarti anche per chiedere il tuo parere su qualcosa. Allora, oppure... possono andare sul sito della UAR di Firenze, sì. Oppure andare su www.cerimonielaiche.it. Ecco, lì c'è un po' spiegato anche un sì, po'. Sì, sono anche su Facebook, ecco. Quindi benissimo. Penso facilmente trovabile. Davide, invece per l'UAR, qual è il contatto? No, www.uar.it per poi lì potete, sì. E poi non potete ho un cercare. Contatto personale perché no, assolutamente internet. Non andiamo nel privato. Sì, una brevissima segnalazione di un evento che l'UAR Livorno organizza per domenica 4 dicembre, giusto? Sì, appunto, questa pericenazia che si svolgerà presso i locali dell'Aurora in viale Ippolito Nuovo 28 e sarà una giornata che partirà dalle ore 18. Che vedrà ci saranno dei grandi ospiti insieme a tra noi. Cui viene un paio. Ma Pardo Fornaciari, ecco. Grande poeta, diciamo cantore italiano, sì. Livornese, Stefano Maria Sardelli. Federico Maria Sardelli, scusatemi. Chiediamo scusa a Sardelli che ci sta sicuramente ascoltando. Io sarò presentatore, quindi non so. Benissimo. No, poi velocemente un breve appunto, ci sarà una pillola dello spettacolo che verrà fatto sempre all'Aurora, che sarà di Pure Show. Quindi vi consiglio di venire perché appunto troverete tutte le informazioni riguardo a questo spettacolo che si dovrebbe fare alla fine di questo mese. Ecco, e di questo spettacolo poi parleremo anche in una prossima puntata con il regista e lo scrittore. Ecco, così do un annuncio. E poi scusate, vi segnalo il gioco di ruolo della Bibbia che si chiama Testament per tutti gli amanti del gioco di ruolo. Ma cos'è, online? No, un gioco di ruolo cartaceo tipo Dungeons and Dragons, però con i personaggi della Bibbia, dove si passano i maghi. Mi informerò. Va bene, allora ringrazio Valentina Calvelli. Ti ringrazio Vincenzo di avermi invitato, è stata una serata bellissima qui a Livorno, fra l'altro ho conosciuto Pardo Fornaciari all'incontro che abbiamo avuto alla libreria e vi ringrazio tutti. Ce l'hai resa sicuramente più bella e più interessante, grazie a te Valentina, grazie anche a Davide. Grazie Vincenzo. Grazie a Federico che ha tenuto insieme la trasmissione e l'ha costruita insieme a noi e possiamo mandare la sigla di uscita. e con voi ci risentiamo, cari amici e cari amiche di Radio Cage, alla prossima puntata. Arrivederci a tutti.